da quelle foreste, perché quando inizi a variare l'ambiente poi è chiaro che escono fuori anche tutti questi virus, perché gli animali si spostano, cambiano zone e quindi molte cose dovranno ancora capitare purtroppo. Se l'uomo è tonto, cosa ci possiamo fare? Arriveranno gli extraterrestri a salvarci. No, secondo me arriveranno a distruggerci, perché dicono che non serviamo a niente. No, gli extraterrestri non hanno così grandi, ci vogliono salvare. Siamo, cresciamo noi che ci comportiamo in maniera... Io ascolto, non so se voi vi ascoltate, però io su internet ascolto Giorgio Bongiovanni, poi altri che fanno conferenze su queste cose, è molto interessante, provo ad andare a sentirlo. Andiamo, vai, andiamo! Vai, cuomane! Ma tu perché non rispondi quando ti chiama? Sono spostato, a parte non vi sentivo perché c'era la mia compagna che si stava salutando la cicchipino. Gabbara, no, scherzato. Stavo provato a chiamare, non rispondevi. Ehi, allora, poi come arrivo a casa, verso le 8:30, mi metto a fare il telefono, così domani ce l'hai. Non ci crede, mi stava fumando una canna di marijuana, amico quello. Mica sono cuoco male come te. Come si chiamano quei pappagalli già? Che vado a vedere. La vitella. Arcobaleno. Arcobalengo. No, il primo, dimmi. Arcobaleno, il primo no. Lori, arcobaleno. Con la I lunga? No, con la I normale. Oh, mi devo allontanare che mi stanno chiamando, ci sentiamo dopo se ci siete. Ciao, ciao. Lucrezia. Oh, Lu. Ehi, già. Allora, io domani vado a accompagnare verso le 10:30 la mia compagna al lavoro, quindi poi devo scendere dal Ponte Nuovo. Se tu mi dici che a quell'ora è pronto, io passo. Cazzo, già, se te lo faccio stanotte, domani mattina voglia che è pronto. Però lo fai più tardi, che io dopo devo scendere qua, capito? Devo andare a prendermi il tram e scendere qua. Ah, e vabbè, là. Ok, andate. Sempre saperlo, là. Sempre... vabbè, ti sono il campanello, là, ti sono il campanello, perché questo telefono vuole buttarti via, mi si bloccano le pagine, mi scrive l'app non risponde, questo e quell'altro, metti Facebook e non risponde, metti WhatsApp e non risponde, metti TikTok e non risponde, e non piglia di tutto il gruppo. E io ti preoccupare. Se il telefono stava funzionando, non lo ripeteva a funzionare. Speriamo che non sia arrivato danneggiato il display, che di solito sono, questi corrieri sono, bah, per carità, no comment. Sai che io ho ordinato un tavolino per il salotto, ma il corriere mi fa, ma che cosa c'è dentro? E lui dice, un tavolino col vetro. E dice, no, mettiamo con riserva perché non si sa mai, catapro un pacco e le belle lure di fasciato. E allora, cosa hai fatto? Ho telefonato alla ditta, dove l'ho comprato, gli ho raccontato la storia, mi ha detto, ascolti, faccia una cosa, se lo faccia mettere lì il vetro per non stare a rispedirlo, a farlo, se sono il vetro, cioè, se lo faccia rimettere un vetraio, e poi mi dice quanto è, io li spedisco, li faccio il bonifico, e così ho fatto. Ho pagato 5 euro, mi ha spedito 20 euro. E visto, un vetro leggero era. Il vetro, la vetrinetta, cioè, no, si apre a libro, sotto si mettono tutti quei gingilli sotto che si mettono e poi si chiude, no? E quello lì è arrivato praticamente col vetro rotto. Ho capito, no? Va bene. Chi c'era? Boh, Natalino, Gianfranco, poi chi c'era? Boh, riprende Natalino. No, solo noi c'eravamo. Capito. Gianfranco si è spostato. Adesso provo ad attaccare il 3009 a vedere come esce. Da di pensare, occhi di vista mia. Il 3009 è il 3009, non c'è niente da fare. Un difetto c'ha. Sarebbe a essere. Che è omologato e non posso fare nulla. Ragazzi, tu di tu. Bah, sono omologato, sai, già usavo tutti i vasi. Ma non rubo su vacchi, si rubò su peggio l'omologazione. Purtroppo un baracchino omologato a 40 canali. sono qua, se ci siamo 3.900 omologato con 200 e più canali, capito? Però come pare che va bene, vabbè, a parte che non ha il dissipatore dietro, ma del resto è bello come apparecchio. Non te lo posso far sentire perché non c'è antenna, se no te l'avrei fatto sentire, ce l'ho qua. Ma l'antenna è l'uomo, sta funzionando la tua? Questo è il mio 3.900. Bello. Ah, Natalia, perché l'antenna non sta funzionando? No, è attaccata qua. Ma l'antenna grande stai usando? Perché non arrivi forte, mi arrivi 9 qua, eh. Cazzo, sto usando 2.5 watt, ecco perché arrivo basso. Io quanto ti arrivo, Natalia? Scusa, guarda lo Smith, 1, 2, 3, prova. Io c'ho 10 watt qua, 8 watt, 10 watt, vai. Santiago 9 stai arrivando, mi vedi adesso, guarda, adesso come ti arrivo? Prima di 8, adesso sei 9, 10, dai. Io Santiago 9 con più di 10 watt. Vedi, io lo uso sempre con 2 watt e mezzo. E io quando ti arrivo con 3.900, Natalia? Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Fondo scala. Cavagliata. Lucrezia. Rivedere la mia musica in DVD, piano piano, prima musica bombe. Ma se i suoi denti sono, non sono più appuntiti, sono arrotondati, no? Non fa male. Però non lo stringe neanche, gioca, no? Perché se stringe, lo sgrido, solo non mi molla. No, sta giocando, va. Aia, aia, stiamo ciccando, aia, aia. E anche te se lo fa. Non ti stringe però, lo fa per giocare. Come sta uscendo questa radio, Natali? Come va di radio? Non mi risponde, non mi sente. Oh, Natali non lo sente a Gianni, non si è sentato. Guarda a vedere Luca, come sta uscendo di radio? Questo qua è 3.900 con l'M93. Una bombetta, benissimo già. Dobbiamo girare un microfono normale io, quello 3.900, anche per questo qua intanto mi dà problemi. Adesso vediamo, ma lo cerco su internet, un microfono tipo CTE così. Via. Senza di noi io li ho messi tutti amplificati, negli apparati ce li ho tutti amplificati, originali non ne ho nemmeno uno. Guarda, questo è il coso, come si... Questo è il 3.900. Riesce bene, ma tu c'hai quello digitale, Natali? No, io c'ho il 3.900 omologato, quello normale. Anche io, sto usando quello io, col microfono M93. Questo è l'MB+4. Riesce bene, sì. La radio poi del 3.900 è chiarissima. A proposito del 3.900, a Marco non l'avete più sentito, non l'ho più sentito. Manco io, evidentemente si è stancato. E avrà trovato qualche pischella. Può anche essere. Cava cava, stavo uscendo in questo periodo, non l'ho più sentito. E andava bene. Luca, dimmi, come mi senti col 3.900? Con le orecchie. Ciao Natale, va benissimo. Ciao già. Ciao Giù. Oggi siamo tutti col 3.900, anch'io sono col 3.900. Ho capito. E io sono con l'Aran 44. E va bene lo stesso. Vecchio baracchino. Andava bene. No, io sto facendo bene, se c'è 2. 9.15 per te, già. Per cui va benissimo. Natalino 9.5 circa. Vai Natalino. Sì, Natalia, ciao Giulio, se mi hai chiamato Natalia sta facendo bene, anche Gianni, siete Giulio lo stesso, perfetti. Brava, grazie per il controllo, meglio tardi che mai. Ah, tanto poco fa sta uscendo bene, prova Natalia. E questo è il 3.900. Sì, va bene. Va benissimo, ciao Luca, va benissimo anche la tua radio, anzi, diciamo che fra le due è la più bella, la radio tua Luca. Io sto usando un microfono normale, questo è il solito Typhoon, l'altro l'ho venduto, l'ho modificato, già te l'avevo detto, sì. No, non mi ha detto nulla, e dove l'hai venduto? A Sassari, a Mauro, quello che abita lì punti, la metto solo in macchina. E per praticamente ci ho perso 20 euro, avevo fatto spedizione, buono, quanti ci non mi ricordo, 200 euro l'ho venduto. A chi, quello che guida il camion della Rente Torba? Eia. Lui? Sì, Gianni, proprio lui. Non sai che mi servono soldi, già, me lo bavo il dentista. Io già ho finito. Vabbè, no, io ce li ho i soldi, però se si va a fare qualche lavoretto in più non lo so io. Ho praticamente 2000 euro in più di quelli che devo dare a lui. Ascolta, ma cosa stai facendo adesso dal dentista? Adesso giovedì devo andare che non so se mi mette i cosi, gli impianti, piano! Però mi sa che mette gli impianti giovedì, non lo so già. E dove sei andato? Vabbè, c'è questo Roberto Cossi. E dove si trova? Via Carlo Felice. Ho capito. Ma dov'è? Dove c'è la banca San Paolo? Lì di fronte, là, al 38. Salendo sulla sinistra, in un palazzo, primo piano. E, come si dice? Ma niente, adesso sono guarito, là, in tutti i punti che mi ha levato, sono guarito e a posto, non ce lo manca a mangiare. Perché ti ha tolto i denti? Ecco, allora, le radici. Tutte? Per forza. Adesso mica poteva fare il lavoro, certo che sì. Infatti lì metterà gli impianti. Aia, basta! Almeno adesso è il sorriso d'Urmas. Poi posso fare la. Posso fare la pubblicità già. Il sorriso d'Urmas, il sorriso che conquista. Avanti Natalì. Ho visto quel pappagallo, bellissimo. Fai il Natalino. Hai visto? Io ne ho due. Ecco. Lì ma sapesse maschio se femmina bisogna fare l'esame del DNA. Sei maschio, ma tra di cosa hai fatto? Come cosa ho fatto? Niente. Che Santiago 3, da 9-10 ieri. Confermi Giulio. Ok. Andave, tutto va bene. Così, vedi così cosa vuoi fare. Sì, in effetti sta facendo tutti bene. Adesso Natalino, l'ultimo passaggio che ho fatto non l'ho guardato. Tu stai dicendo che si è abbassato di Santiago. Boh, io l'ho sentito lo stesso, di verità l'ho sentito. Natali. Guarda a vedere. Ma di molto che si è abbassato. Santiago 6 appena. Da 9,5 quasi che eri, sì, adesso sei Santiago 6 appena. Controlla. Mica. Ma Luca, dai. La tua radio è bella, anche se il microfono normale va benissimo. E beh, tutti quali ci siete. Gianni. Scusa, stavo guardando allo spioncino perché ho sentito del rumore alla porta. Siccome ieri hanno fatto una sorpresina a quella di fronte, si stavano aprendo la porta mentre era dentro casa. Già ci sono. Questi delinquenti già ci sono in giro che fanno queste cose, che tentano, perché magari sentono silenzio assoluto e allora loro ci provano. Perché ci vorrebbe, appena che riescono ad aprire, ci vorrebbe subito una pistola messa in fronte a questa gente qua, si bastardi. Io non faccio la pistola anche a Verugani. Glielo mollo, non me ne ha fatti nulla. Chiesto che ci bida. Vabbè, ma cos'hai? La caratura di sicurezza hai nel portoncino? Ma adesso io ho la porta blindata giù, non se la tua sicurezza, ho la porta blindata. C'ha 2, 3, 6, 9 brisci va. E allora cosa vuoi? Vabbè, nel portoncino, nella porta blindata c'è la caratura di sicurezza, no? Se no non sarebbe porta blindata. Va bene così allora, prima devono lavorare a lungo, prima di riuscire ad aprire. Ma se trovano per dire una passata solo, senza dare passate la porta, ti passano le lastre piegate in due, come fanno i vigili del fuoco, non le hai mai visti, la lastra la piegano in due, la passano e si apre la porta. Lo so, se le aperte anch'io così. Devo aprire, basta un negativo, uno di qualsiasi negativo, basta che sia un pochino grandetto. Devo aprire anch'io prima, poi ci sono anche altri sistemi per aprire, no? Ce ne sono mille sistemi. Una cosa è certa, la sicurezza assoluta non esiste, questo non te lo dimenticare mai. C'è sempre qualcuno, perché come dice la storia, fatta la legge e trovato l'inganno, è così. di tonnellate. Fatta la serratura o la chiusura super attrezzata e subito trovano come smontarla. E poi se non ci riescono a portarlo dalla finestra, non c'hanno problemi. Io ne ho visto uno una volta, non è solo che saltava da un terrazzo all'altro. Qui stavo fermando per chiamare la polizia e mia moglie mi ha detto no, lascia perdere, fregatene. Poi magari ti fanno mille domande, questo e quello, e quindi io ho fatto gli affari miei. Ecco, è già vero. E poi lascia che magari era qualcuno che ha chiesto il permesso, che ha preso la chiave, allora ha chiesto il permesso a quello che abita di fianco per saltare da uno all'altro. Insomma, se uno si è sicuri che sia un malvivente, allora è utile, capito? Se uno è sicuro, allora è giusto anche avvisare la polizia, certo. Non è la persona che ha chiesto il permesso, no? Quello lì era un coniglio saltando da una parte all'altra, tu dovevi vedere come saltava da un terrazzo all'altro con un'agilità sfacciata proprio. Ti sto dicendo che pari a un coniglio brinché. Ci sono queste persone. Ci sono quelli che salgono attraverso il tubo di scarico del tetto, un viale, di tanto in tanto qualcuno si spiace a terra, perché gli si rompe magari il tubo e cadono come salami. È successo anche così, anche quello è successo. Vabbè, comunque siamo un po' allarmati questo periodo, lo sai cosa è successo? Che lei ha chiamato, pensava fosse la figlia, l'ha chiamata per nome, come ha sentito così, quello si è messo a correre, lei ha aperto in fretta la porta e l'ha visto scappando, cioè aveva una maglietta verde e un paio di jeans. Poi la sera io, quando sono uscito, ho visto questi due zingari e uno aveva la maglietta verde e i jeans. Poi si sono seduti sotto vicino a casa, stavano bevendo birra, eccetera. Io sono risalito su, l'ho detto a lei, ho detto anche di controllarmi casa mia perché stavo accompagnando la mia compagna al lavoro e non volevo che magari entrassero anche in casa. Ho detto fammi la cortesia, se poi vuoi chiamare la polizia e farli controllare, chiamala, perché le cose corrispondono. La maglietta è verde, i pantaloni, ma potrebbe essere anche un altro, solo che erano due zingari. 2 più 2 fa 4. Già lo sappiamo, gli zingari fanno queste cose, già lo sappiamo. E sono convinto che non ce n'è uno che non faccia queste cose, sono tutti quanti, per carità. Siete abituati così, tanto cos'è che hanno da perdere? Non hanno niente da perdere con la gente lì, anzi. Anche perché intanto quando poi li trovano, li portano in caserma, li interrogano e poi li lasciano liberi. Oi, sì, vabbè, comunque così. Lo so già, funziona anche così la vita, purtroppo oggi non ti puoi fidare di nessuno, poi hanno praticamente la legge a loro favore, questa gente. Vedi quell'orefice che aveva ammazzato quella persona, rischia grosso, rischia quello lì, eppure è entrato a casa sua quello lì e gli stava rubando tutto quello che c'era nel banco, purtroppo è così. Sono favoriti anche dalla legge, io a questa gente le avrei tagliato le mani, anzi le braccia addirittura, le avrei tagliato, così almeno non avrebbero fatto più di queste cose. Come minimo. Come fanno in Africa, ha detto questo amico mio che no, in Arabia, è andato a lavorare in Arabia, questo amico mio ha detto che un giorno sentiva clamare e in piazza c'era questo falco, c'era questo qui e gli stavano tagliando le mani con la scimitarra perché dice che aveva rubato in una gioielleria. Oh Gianni, guarda se è tornato normale il segnale. Sì, qua sei 9 Natali, però questo smitter del coso del 3009 è un po' guzzecco, quindi dovresti essere 9-10. No, non va bene Natali, sei sempre Santiago sì. Sempre Santiago sì, sono tu. Ehi, ya. Santiago sì, sì, appena. Per cui si è abbassato moltissimo, ma molto però. L'ultimo passaggio che abbiamo fatto, te l'ho detto anche, è quasi 9,5. Praticamente avrebbe lo stesso segnale che aveva Luca, anzi Luca appena appena più forte anche. E adesso sì, Santiago sì, Luca è perso molto, no? Qua è 9 perché siamo vicini. Lo so, lo so. Tu lì, vabbè, sì, sì. E io quanto ti arrivo, Gianni? Con quel baracchino lì? A 3.900 hai detto, no? Guarda com'è, guarda lo smitter. Vai. 9.10 sì, giù. Mi sa, allora hai ragione che lo smitter è messo male. Hai ragione, che quello smitter è un po' secca. Vabbè, ma volendo uno si può regolare, ma cosa ti affuggi, lascia perdere. Va bene lo stesso. Si può regolare sempre con quelle. Con il VR devi toccare uno, VR1, e lo smitter ce l'aggiusti, te lo metti a livello che vuoi tu. Te lo regoli a livello degli altri baracchini. Allora, il 3.900 da quando arriva, questo qui è nuovo, il 3.900, premesso. Addirittura l'avevo comprato... 9.25 qua da me. Tutto allo stesso prezzo, avevo comprato quello nuovo. E praticamente questo qua arrivano già così, anche Marco l'aveva regolato, lo smitter. Sì, è già fatto. Perché so che devi dare 10 punti in più nel regolo così, non è che... E quando arrivi 9.20 vuol dire che sei 9.20. Io, Gianfra. Gianfranco, ha abbassato un po' di segnale. Adesso si è abbassato anche del radio, non sta lì. Oltre che di segnale, anche del radio. E lo spettone del resto. Oh, Giulio, buonasera a tutti. Oh, ciao. Ciao, Lu. Ok. 9.20 adesso, da te? Sì, 9.25, Natalino 9.10. Ho capito, 9.25. Sto usando 10-12, non di più. Una cosa del genere, 10-12 watt più o meno. Che raga, ma riprendete pure, io sono entrato un attimo qua perché dovevo stampare della roba. Riprendete pure. Ok, ciao Lu. Ok, alla prossima. Avanti Gianni. Io come ti arrivo di segnale con questo apparecchio qua o giù? Così come sia adesso 9.15. Allora inizialmente quando avevi provato sicuramente eri attaccato di oltre 9.20. Gabba. E vabbè, c'ha nemmeno 4 watt c'ha questa parola. Ok. Va bene, va. Andiamo bene. Andiamo bene già con 4 watt, cosa vuoi pretendere? E poi sono segnali abbastanza forti, cosa? Non è importanza arrivare esageratamente forte. Interessante sentirsi bene il radio. Natali, vediamo cosa hai combinato. Non ho combinato nulla perché c'ho lo stesso nel... Natali, quasi non ti sento più, quasi non ti sento più. Sei talmente basso, sia di segnale che di radio. Non ti sento più praticamente. Vabbè, lasciamo perdere, c'è lo stesso nel messo male. Ma vai, farà quasi a 9, sì, Natali. Bubu. C'ho i cavi vicinati. Controlla perché quel stazionario è un bel anche. Sicuramente sì, tu quasi era 9.5 con quel baracchino, quasi 9.5 mi stava arrivando. Adesso Santiago sì, la radio non c'è più, quasi proprio un bisbiglio c'è, non la radio, un bisbiglio, un piccolo bisbiglio. Dai, io vi saluto raga che stanno a prendere la mia compagna a lavoro. Ci sentiamo, ciao a tutti. Ok, ciao già, ciao. Alle prossime. E così è Lu. Si vede che ha qualche spezzone che non gli fa ben contatto. Evidentemente è così, magari se al PL avrà qualche problema. Perché prima inizialmente era 9.5 quasi qua. Insomma, era discreto. Adesso è Santiago sì e radio quasi niente. Controlla tutto. Sto stampando giù. Ok, va benissimo. Tu mi stai levando 9.20 pieno, anche abbondante. 9.20 un pochino più della freccia. stato, vado benissimo. Guarda adesso. 9,5 da me. Sempre basso sei Natali, sempre basso di segnale. Adesso la radio un pochino si sente. E vabbè dai, ho i piedi messi male. Bisogna che ti faccia i cusi, dai, stato pieno stazionale, non muovo più per il momento. Adesso devo fare altra cosa, ciao a tutti, vi ascolto. Va bene, ciao Natali, ci sentiamo. Alle prossime. Avanti tu. Ehi, ciao Natali, ciao. Dai, mi assento anche io giù, che devo andare in fondo a un pezzo. Ci sentiamo dopo. D'accordo, Clu, alle prossime. Guarda che per quella questione non ho cambiato idea, mi ricordatelo. No, non lo dare, perché appena che è possibile mi faccio una scappatina lì da te. Io sempre qua oggi, già te l'ho tenuto da parte. Appunto, tutte le volte che io ti ho chiamato tu non ci eri a casa, pazienza, vuol dire, troveremo quando coincide tutto, dai. Kappa, dai, ci sentiamo dopo se capita, che devo andare fuori. Ok, ciao Lu, alla prossima, ciao. Ciao, ciao. Mozzarella, ah, cosa buona, pappa asciutta. Pomodoro, adesso sono un po' non mangio pane e pomodoro, ma da ragazzino già ne ho mangiato poco, cacchio, pane e pomodoro, e rughizza. Io ne vado matto, Ma pomodori quelli russi succosi, mi schiacciato bene, messo sopra, poi un po' di rucola e poi anche formaggino, ma se vuoi un pezzo di formaggio, pecorino, che accanto una giovagnardo, o pane fichi mi da bambino. Guarda come ti mi piace a me, Robè. Il panino spaccato e messo olio di oliva, ma essere vergine davvero, meno di chissà, di questa buccaria che vendono da riunità europea. C'è l'olio buono. Io sto prendendo quello, non so se lo conosci, Kerchi, quello di Amedeo, quello che c'è nel bar lì di Via Tempio, è un bel buono quell'olio. Sì, che è buono, fa anche faccia il ma quelli dove sono di Usine questi? Quelle parti sono, Tisi, Usine, chi ci abbatte? Sempre noi ne facciamo un pochettino, diciamo, non ci prendiamo tutto noi, ci abbiamo giù alle punti un 30-40 alberi saranno, non lo so, c'è il tipo che ce lo raccoglie, ce ne dà un pochettino a noi, ma cacchio, quando senti quel profumo dell'olio è tutto diverso da quello che compri, anche può essere travergine come vuoi tu, ma l'olio di campagna fresco è un'altra musica. Pure questo che sto comprando c'ha un bel profumo, è ritornato il profumo di una volta. Chi zucchi con pareggi, tutta roba strana, chi sei con pareggi cucci, ma quello di Amedeo è veramente buono, è proprio, si sente che è fatto come deve essere fatto, rubiaco proprio di lozzo. E io cosa c'è anche dolorizia ora? Ah, ma poi ci metti, se c'è un po' di pane, tipo pane sardo, pagnotta sarda, gli metti un po' di olio, sale, anche con una sfregata di aglio sopra, te lo metti a scaldare, ma tanto è buono. Non so, Guglia, non rimaniamo cazzo, fai no, che io avvia di Darudizzi. Io le faccio così, lo spacco, gli spacco una pomata, gli pongo appena appena di origano, sale e olio di oliva. Guarda quanto è buono. Lo sai, una volta l'ho provato con quello comparato così, non va via da ore di nulla, manco cara di magnaghi su banino. Cioè, catta di un buccio, sono ritornato come era di 15-20 anni fa. Proprio il sapore buono dell'olio. Guarda, per fare un esempio, sono andato in campagna di questo amico, di lì verso San Camillo, Tanica, dai, che si entra dalle luci gialle, però era proprio in profondità, verso quasi arrivare a San Camillo. E di lì c'aveva degli alberi di nespole, solo che nespole non mi sono uscite male quest'anno, non è periodo, ho mangiato un paio di nespole, quelle buone, ma un gusto, cacchio, anni non mangiavo così buone, che rimangono proprio con quello zuccherino, e poi mi ho mangiato un, siccome c'è un orticello, c'erano buoni i coso, ma si chiama, aiutami, il finocchio, proprio preso dalla pianta, lavato, cacchio, un altro gusto, non erano maturi maturi perché erano ben duro, ma tu dovevi sentire il profumo e il sapore di questa cosa rispetto a quelli che se no chi da Bumata che ne regava di Obilori da Castelsardo, c'è chi buona che si può assomigliare chi sei con pareggi, ma neanche appena quella zucchetta a me, canta che roba buona, sai quanto ne mangiavo mio padrino quando le portava a casa, quanto ne mangiava di chissà roba, ma avevano tutto un altro sapore. No, le pomate, i pomodori non erano ancora mature, erano verdi, ma adesso tra una decina di giorni, una settimana, 10 giorni sono belli, di quelli rimangono, non quelli ovali, quelli tipo rimangono tipo il peperone, dai, con la forma del peperone, non so se ce l'hai preso. Chi si, non di chi si dondino, chi si ronchi, è poco so buono in me. Già lo so, poi c'aveva le cipolle, patate, aglio, cosa cavolo c'aveva, fagiolini c'erano, però i fagiolini li aveva già tutti, un piccolo orticello piccolo, aspetta, non era piccolo, era stato 50 metri, anche di più, 60 metri di orto per 20 metri, e c'era un po' di tutto, però ti posso dire è bello. Tutto un altro sapore c'è la roba di campagna, non venuta di vanno. È vero, non c'è mai, tu quando vai l'altra volta, quando è un 15 giorni fa, mi è venuta voglia di mangiarmi a bicocche, non è scusa a bicocche, Nespole, sono andato alla Conad, belle, cacchio, questo avevano più di un prezzo assurdo, sto dicendo una cosa che se l'ho detto, dai, non le volevo assaggiare, ma tu le vedevi grandi quanto un'albicocca, talmente erano grosse, poi vai a mangiarli, niente, come stai mangiando una scarpa senza sapore, senza, mi aspetto bellissime, giganti, però gusto vedo. Buonasera a lei, fazia in Iracamo, anche nella giubilea di Burueo, c'era un albero lì a latte dolce, poi chi ci ha vedere, avete ciambalo saore, cioè io ce li avevo vicino, i fichi presi lì, nella zona, tutto un altro sapore. Avanti, Porto Torres. Buonasera a tutti, ciao Roberto Lanconio, ciao Antonio Lanconio. Allora, che si dice? Ti prendo io, ebbene oggi, ti ha finito qua oggi? No, ho finito oggi, ho finito lei, alle 7. Sono rientrato, ho fatto la luce, ho acceso un po', ho fatto scaldare, poi adesso sono apro. Meglio ogni tanto metterli in moto questi giocattolini, se no si rompono le molle che ci sono dentro. Vai Antu. Ehi, sa cosa, o virai la fai andare, o se no pigli e ti la vendi, sono due rigose, perché se no addios. Ma non mi sono tutti i giorni, io acceso sempre praticamente dalla mattina fino alla notte. Sì, sì, hai peggio. Sì, ma che sta arrivando all'estate questa propagazione, il problema è allucinante. Sì, hai tengo già. Mi ha fatto bene un attimo. Sì, capa. Già lo sento, già. Tanto, molte volte faccio fatica a sentirti, a capirti. Ti porti dietro il... perché non è che stia utilizzando questa canto, no? Ah, vai da vedere, va! Però adesso c'è un po' più forte, vai! Un po' più forte, io c'ho la propagazione con la mammaretta. Cappa! Sì, vai, è troppo, sennò però do gue o a propagation. Attenzione, cambiate canale, cambiate canale, se no sono cavoli vostri. Allora te lo do gue o tanto a te. Che va freddo signorino. Dopo te lo posso vedere io come ti arriva a Porto Dosa. Vai a caricarci un poco. Sono rientrato. Sì, va bene. Mi andate. Allora, cosa mi racconti, va bene? Oggi ho visto, sono andato, dove che li ho visti, mi sembra che abbiano due Harley Davidson come le tue, però tutti e due dello stesso colore, celestine, vabbè, non proprio identica alla tua, non con quel, con quello specie di coso, di, come che si chiama, aiutami, non mi viene, qualcosa aerodinamico, non mi viene il nome, senza di quello, però la versione erano tipo le tue, tutti e due azzurrino metallizzato, o erano turisti, non l'avevo mai visto. Senza il cupolino, mi veniva la parola, senza il paraginocchia, però la moto mi sembrava uguale alla tua come periodo. L'altro giorno è venuto lo stesso un altro in officina, non so cosa doveva fare, già ce ne sono in giro, dai. Sono tutti appassionati, cioè chi c'ha quelle moto lì vede solo quelle moto lì, è come dire, uno c'ha il Ferrari e gli presenta il Porsche e neanche a vederlo, o viceversa, se uno c'ha il Porsche non può vedere il Ferrari, chi c'ha l'Erli non guarda le altre moto, dai. No, vabbè, a me, io sono il cubio già, gli altri moto già, sono tutte. Ma hai avuto altre moto tu oltre Erli? Sì. Che avanti tu sei? Ehi, a poi dove ti arriva a Porto Dorra? Schiaccia tu! 1, 2, 3 prova! E ancora bisogna aspettare un pochino, Più forte il radio, ma il segnale è rimasto uguale. Ehi, agita, aspetta un pochettino. Impressa, sì. Ma prima tu avevi l'altro? Ah, avevo l'altro, avevo. E l'altro baracchino che avevi prima esce un po' meglio come radio, questa è troppo, forse è troppo amplificata la sera. Anche l'altro giorno quando stavo camminando in macchina l'ho sentita con il ricevitore, è troppo forte, la sentivo la radio. Zero grade. Io tutto bene, oggi da parte mia, come sto andando? Tutto chiaro la radio, va bene? No, adesso no, ci sentiamo come sempre, perfetto. Cosa è successo? Forse sto toccando dietro con lo spagnolo, mi sta arrivando Santiago, se è possibile. No, io non ho toccato niente, sono sempre uguale. Come sto uscendo? No, sto uscendo bene, perfetto, perfetto. Sapete che c'è, la mia partita di qua, lo spagnolo Santiago, l'ho sentito anche adesso quando stai parlando tu, non sono spagnoli, sono bulgari, 9 più 15 stava là, però è in FM, è per quello che ci disturba. Sono FM. Intende, intende, burdeschi visuava. Ma ve lo dico io. Hai una pennata da rogganare. Se no ti faccio schiattare. Quello un po' oggi a Pucio d'Orra come te, va. Sono più forti di Eugenio. Capo, più forti sì. Lasciare il canale libero qui, questa è Italia, se no in oggi vi disturbo io. Dimmi Eugenio. Ma per lo meno schicchia forte. Ma sto arrivando Robelli su. E zitta. Beh, tu. Dimmi tu. Hai fatto? Fatti mio, vado in frigo a prendere roba da bere e arrivo. Sì, vai, vai. Mi registrava, mi rimandava. E va? Allora, e di fuori c'è stato un mezzo tedesco che mi ha raggiunto il fiera. Arriva dove c'è talmente forte che si sentiva perfetta la mula voce. Mi giuro che avevo di culo, va via. Sicuramente. Attenzione, bianco di guru. Ha risolto con qualcosa, no? Non ho capito. Ha risolto con qualcosa? Sì, ho risolto lui. Adesso mi devo impegnare a fare i pezzi. Mi devo impegnare. La prossima settimana al lavoro. Ascolta a me, ma devi scaricare la roba? Per il momento no. Devo buscarmi un buon karaoke. Quella non l'ho sentito, è impegnato adesso, adesso come ha riniziato a lavorare, perché era fermo. Scappa. Cavolo. E mi c'è qualche volta in difficoltà, io lo posso aiutare pure io come appoggio, non c'è problema. Cioè magari succede qualcosa all'impianto o qualcosa. Io lo posso aiutare. Cioè? Se magari ti ci guasta qualcosa, io lo posso aiutare, ma che paghi? Questo è tecnico. Ne ha un po' di roba. Sei bravo Fossilio. Capo, dai. Ma fa, sto facendo serate di karaoke. Sì, la rocca. Da lui sarà, forse lo conosco me. Oh, Leonardo si chiama. Capo, sicuramente lo conosco. Schiappa. Ah, vediamo, cioè, devo buscare un buon karaoke, mi devo buscare, se no che cosa posso fare? Io? Tutto aggiornato. Per forza. Devi fare karaoke, quella è la storia. Dovresti fatto un giro. Vabbè, ma tu l'hai agganciato le casse, al mixer, hai agganciato tutto. Oh, grido via. Adesso sono dimontato, però. Il computer è a posto, sì. Scappa, quel cavo là mi serviva. Tu dovresti comprarti un antivirus però, perché free alla fine non dura niente, un mese ma non ti copre. Non so. Allora una cosa piano piano. Scappa. Alla fine quel programma dovevamo scaricarlo, lo sai. Avevamo scaricato il programma sbagliato. È per quello che non si collegava la console. Prova a vedere a base anda. Ah, l'hai cambiato allora il programma? È un grido, gli abbiamo messo quello giusto. Tuo padre l'hai fatto? L'ha fatto lui. Io ho preso quello, io con i programmi sono un po' con i gatti, ci ho provato, capito? Vabbè, te ne sapete che è risolto, va. No, non c'ho più pazienza, prima c'avevo pazienza, tu. Cioè, ci dica buba, fa il computer mio. Cappa. E come si dice? E comunque l'abbiamo risolto. Abbiamo DJ Cedica, che cosa del genere, cioè tutto, come l'ha installato subito la console ha cominciato a fare dei cose diverse, ha cominciato a aversi i comandi, tutto. Ma l'altro l'avete disinstallata? È già un grido, via. Scappa. Comunque va bene, non è che ti devi abituare, devi fare i pezzi e via. Sì, che sono convinto quando attacca l'impianto pompa forte. Sei così culo, non hai finito da punire la porta? Ma a canto mare. A canto mare, lu. Siamo di vava. Dal poco che è. Secondo me è anche pinchinoso, secondo me. È vero. Cappa. Ma sia io. E cosa vuoi fare? Resta dietro. Non tanto. Cappa. Razza di gabbo che forca. Che cose, no, allucinante. Se è Federico Gaburotti in FM, il tuo dione. È vero. Ma è la ti apre lo squelci anche. Cappa. Ui, ui, ui. Cosa vediamo? Dunque, questo io non so di che anno è, però per essere di che l'anno, cioè, secondo te, Cappa, va anche troppo bene quel computer. Anche tu, spadando, vediamo. Il suo computer superiore a quello, come si dice, più spendi più hai. Allora, per fare il karaoke va bene, che più o meno lavori bene, un i7 di processore. Lo so già. Ma con quello lavori non bene, addio. È super veloce. Lo so, purtroppo ho disinstallato. No, Windows 7, no, i7 di processore. Ah, ho capito. Capirai che c'è. Ma appena avremo i soldi ne compriamo uno un po' buono, dai. Cioè, un computer un po' più forte. Adesso per il momento ci dobbiamo accontentare di quello. Ma di che anno può essere quello lì? Boh. Avrà 8-10 anni. Si vede io. Usa quello, va bene. Caspita, se va bene. Allora, il computer si rovina dall'usura, che ne fai? Poi ovviamente vuole pulito anche. Dentro una ventola, dipende da come lo usi il computer. Se uno si andà senza fare le manutenzione ti si rovina. Lo so, ma non tutti sono bravi a aprire a fare. Poi io sono di quelli che non aprono, cioè se non lo devo fare il travaglio non ne apro di roba. Se ti vedo come lo sai fare, allora lo posso pure io. Ma se no non ne tocco. Io ho avuto un radio che ancora c'avevano i baracchini che c'avevano ancora le vicchi senza toccare, ti puoi immaginare. Vabbè. Via. Andiamo, andiamo, scherza. Non sono una persona che si muove a scacciavitato, no, è una lingua tutta roba originale. Così deve essere, allora. Pronto. È difficile che io apra una cosa. Stavo mangiando un paio di ringo, avevo fame. Ciao, voi. Anche se ho cenato, ma. Un po' culeva, fresca, fresca, calda. E viaggio nata un gabbo. Viaggio. Cosa è un gabbo? Un ringo. Magari a bordo, io ci vedevo un attimino. 2 secondi. Un macco di catena, era in oggi. Stava rompendo le scatole a quella roba minacciando il sapa. La voce. Io ti rispetto, ma io vengo e poi sono capo di due tante cose. A Giorgi, quello che c'è di fronte qua. Ma carità, ragazzi, di gente. Pucci. Ma vanno a rompere le scatole a me e poi, che non combini niente qua. A chi? Se no guai. E c'è un attrezzo, e c'è un sacco di brazza. Sei inutili qui. Non so cosa sia successo. Ti là e tu che sei combinato ogni di voglia. Io non so cosa. Cosa male sia. Ah, più tardi in fricame, mi mangio lo coso, mi mangio il gelato al tiramisù. Sai, anche io l'ho preso alle spinta. Beh, è finito. No, ho comprato a Corte Santa Maria io. Allo spinta? No, Corte Santa Maria, la sigma. Io ho preso alle spinta, molto buono. Sì. Capa, anche io l'ho preso lì a Corte Santa Maria. E io compro un po' a Callero Spin, prendo roba, compro un po' lì un po' là, sto comprando, mi trovo molto bene qua a Corte Santa Maria, alla Sigma là, e poi le mozzarelle, i gozzi sul parboreo prendo, mi piace di un bel, prendo anche con gli yogurt, prendo quella la frutta, mamma mia, io giorno io non li mangio più di chissi. Poi vabbè, le mozzarelle le prendo all'Eurospin, però non quelle sarde, le altre, le sarde rimangono un po' sembrano acide, poi c'è le altre, quelle della Land, sono buonissime, buone, compro quelle infatti. No, io prendo quelle con la bandiera sarda, sono buone lo stesso. Arborea. No, io no. Io prendo quelle della Land. A me piace di più se arborea. Oh vabbè, quelle originali che compro io sono buonissime. Oggi capo, il sapore è buonissimo. Ma non ne ho mai trovate acide, la verità è. Magari ce ne sono di due tipi, mi pare che ce ne. Ho provato quelle della Cesa e non mi sono piaciute. Preferisco di più arborea. Sì, queste qua rimangono un po' così, un po' acide. Quella che c'erano la è mia tribù vita. E a cosa ne dei gusti, io sto prendendo quelle originali, sto prendendo, e sono buone. Però io ne ho preso un paio l'altra volta dell'accesa, che le fa l'accento Sardegna, ma non erano così buone come le Arborea, è la verità. Beh, a gusti a tu. Anzi, io questo nome non le mangio, come di te. Che cosa, mozzarella? No, io pure. Mamma mia, non mi fa pensare di chi si. Quelli c'è una scorta in frigo. E anche Maria ne prende un bel. Lo mangia lì il figlio. A me mi piacciono, a me mi piacciono quelli. Io sono buono. Sono buoni, sì. L'ho presi anche da Eurospiglio, per molto buoni lo stesso. Guarda, ma impazzisco quelli alla frutta. Ma sai cosa ha fatto? Figlio rugucciari, me ne apro 3 o 4 e mi rimagno. E fate una piazza di domani? No, che devo assaggiare tutti i gusti. Gusti assortitimi. Sì, sì, ho capito. Che la fa? A togliere una offerta gli ho preso a Corea. Per 2 pacchi ne ho preso. Allora ve ne è rimasto uno ve ne è rimasto. Anche io ne ha tanto varo, soprattutto di notte. Non per forza questo qua. Già lo so, già, sto prendendo un bel da brutto. Non mi ha un po' di casino. Ma quando apri tu, gli annienti tutti. Non penso che al monte mi superano. No. Che la mamma calati dolce se ti invito. Cappa. Lì comunque io mi ricordo lì che era, anche se avevo un'antenna piccola, era una cosa micidiale in questo periodo, in quella zona. Ogni casino. Beh sì, è vero, è vero. Come qua sì, arrivano così, però sono più attenuati. Là con segnali fortissimi arrivavano. Hanno notato tutto che forse è proprio la zona aperta. Comunque ci arrivavi bene, vabbè da me, qua dalla Tedò ci arrivavi bene. Poi sono più forte che c'è la sul tetto, poi ho tutti i fuori radio. Ci ho passato da un roccio di cubo un'antenna vera. Beh infatti, no, con la boomerang di arrende un bel, era tutto un casino. Se la mettevo come la stavo mettendo io va bene, col cavo così rende, ma fa tutto quanto il giro, la camera, Beh non so, ci ha messo. Cavolo, sicuramente in chi mi intendi? Quando l'hai detto Gargamella, cosa l'hai detto Vattari? Che eri Gargamella, così è. Cata se t'ha inteso, Guido. Sì, si ascolta la Gargamella. A voglia che t'ha inteso. E come? Scappa. C'ha un po' di resa, c'ha. Soprattutto in Kipi, gatta che... Si andi più... Non so cos'è, se lo vedi dalle finestre. Che ti vedi rumare, ti puoi immaginare cosa c'hai lì. Lo so. Troppo, vabbè. Rimane lì e mi interessa. Sì, ma già va bene, già. Già va bene. Io mi ricordo che a casa di suocero io vedevo il mare. Ma proprio vedevo un blattamone, adulto. Cioè, ti puoi immaginare punendere in chimico, cosa è? Lo so, gli arrende. Che la fa? Mi dice, ci sono i vicini, c'è coso, Tore, vabbè Gio Maria più sopra, poi c'è il gufo, in chi mi arrivi fuori? Cazzo voglia! Che la fa? E te è brutto! Allora ti arrivo una te che si mangia cazzoffa? Sì, arrivo, mi ha fatto lo squerch. 9, 9, 10. Ah, e tu? Mi trovo poi al film. Ah, fa di si zozzone. No, canale 5. E cosa è? La fuga del cavallo morto. Io ho morto. Ah, le mostro un cavallo. No, c'è ghiaccio in fiamme. Ah, pure in fiamme il virale? E tende. Allora, caspettina. Io quando vengo in onghi mi raggio io sulla televisione, no, non mi interessa, capito? Vabbè, io c'ho la camera mia. Che pure qua potevo mettere volendo, ma non ne ho messo. Ma come viene sistemata l'antenna al televisore tu? Vai una di non nega, una di rilassata, vai di un programma, non sai chi va a staccare l'antenna dal baracchino. Già lo so già, bisogna funzionare l'appoggio. Cioccolato, bombe a mano e fiago di guru. Fiago di ghignar, ma mi tu. Io ti saluto, è stato il film, bello. New Amsterdam, 3, prima assoluta. Capa, io vado a guardare che su di ramissù che andiamo a mangiare, va. Un po' gamma, un po' cazzara. Dopo io, giriamo l'uretto e ti cucchiamo. Vabbè, io mi sono messo a questa parte, giriamo e poi ci giriamo dall'altra parte. E ti cucchiamo più bene. E fai bene, andiamo. Dai, sentiamo domani, tanto ciao, buonanotte. Ciao da Sara, ciao. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao, arrivai di manco a Burotto, mangia cazzofa.